Il terzo anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato, Museo dell'Audiovisivo. Sandro Lombardi legge Passaggio in India, di Edward Morgan Forster. Traduzione di Adriana Motti. Miss Quested, Aziz e una guida proseguirono quella spedizione un po' noiosa. Non parlavano molto perché il sole cominciava a farsi sentire. L'aria sembrava un bagno caldo in cui sgocciolasse di continuo acqua bollente. La temperatura continuava a salire, i massi dicevano «sono vivo», i ciottoli rispondevano «sono quasi vivo». Nelle crepe si accumulavano le ceneri di piccole piante. I tre avrebbero voluto arrampicarsi fino all'instabile macigno sulla sommità, ma era troppo lontano, e si contentarono del vasto gruppo di grotte. En route verso di quelle trovarono parecchie grotte isolate dove la guida li convinse ad entrare. Ma non c'era proprio niente da vedere. Accendevano un fiammifero, ne ammiravano il riflesso sul lustro, provavano l'eco e tornavano a uscire. Aziz era quasi certo che ben presto avrebbero trovato qualche antica scultura interessante, ma in fondo esprimeva soltanto il desiderio che ce ne fossero. I suoi più segreti pensieri andavano alla colazione. Mentre lasciava l'accampamento, aveva visto apparire qualche sintomo di scompiglio. Ripensò al menù: una colazione all'inglese, porridge e cotolette di montone, ma anche qualche piatto indiano per avere di che parlare, e per finire il pan. Per Miss Quested non aveva mai avuto simpatia come per Mrs. Moore, e non sapeva che cosa dirle, specie adesso che lei stava per sposare un funzionario inglese. Nemmeno Adela sapeva che cosa dirgli. E se per Aziz il chiodo fisso era la colazione, per lei era soprattutto il proprio matrimonio. La settimana prossima Simla, liquidare Anthony, un'occhiata al Tibet, la noia delle campane nuziali, a ottobre Agra, far imbarcare comodamente Mrs. Moore a Bombay. Si vide ripassare davanti agli occhi quella filza, sfocata dal caldo. Poi si dedicò al problema molto più serio della sua vita a Chandrapur. Queste erano le vere difficoltà, i suoi limiti e quelli di Ronnie. Ma affrontare le difficoltà le piaceva e concluse che se le riusciva di dominare i propri eccessi di carattere, che erano sempre il suo punto debole, senza prendersela con l'Anglo-India ma nemmeno soccombere, la loro vita coniugale poteva essere felice e proficua. Non doveva essere troppo teorica. Avrebbe affrontato i problemi via via che le si presentavano e si sarebbe affidata al suo buon senso e a quello di Ronnie. Per fortuna, buon senso e buona volontà ne avevano tutte e due da vendere. Ma mentre si inerpicavano su una roccia che pareva un piatto capovolto, pensò: «E l'amore?» La roccia era intaccata da una doppia fila di appigli che in qualche modo le suggerirono quella domanda. Dove aveva già visto quelle intaccature? Lei e Ronnie? No, non si amavano. «Vi faccio andare troppo in fretta?» domandò Aziz, perché lei si era fermata con una espressione di dubbio. Quella scoperta era stata così repentina che Adela si sentì come un alpinista a cui si sia spezzata la corda. Non essere innamorate dell'uomo che si sta per sposare, non averlo capito fino a quel momento, non essersi mai nemmeno rivolta a quella domanda. Sempre altro da pensare. Irritata più che sgomenta, rimase immobile, con gli occhi sulla roccia sfavillante. Nell'ombra c'erano stima e legame animale, ma il sentimento che li collega mancava. Doveva rompere il fidanzamento? No, non era di quell'idea. Ne sarebbero venuti troppi fastidi agli altri. Del resto, non era convinta che l'amore fosse necessario per un matrimonio riuscito. Se l'amore fosse tutto, pochi matrimoni sopravviverebbero alla luna di miele. «No», disse. «No, sto benissimo, grazie». E dominando i suoi turbamenti, riprese ad arrampicarsi, benché si sentisse un po' frastornata. Aziz la teneva per mano. La guida aderiva al suolo come una lucertola e correva in qua e in là come tenuto su da un suo speciale centro di gravità. «Siete sposato, dottor Aziz?» domandò lei, tornando a fermarsi e corrugando la fronte. «Sicuro? Venite a trovare mia moglie!» Perché per un istante gli parve più artistico avere una moglie viva. «Grazie», disse lei distrattamente. «Ora non è a Chandrapur». «E avete figli?» «Sicuro? 3?» rispose lui con tono più deciso. «Sono una grande gioia per voi». «Beh, è naturale, li adoro», rise. «Lo credo». Che piccolo, orientale e attraente era Aziz. E senza dubbio anche sua moglie e i suoi figli erano belli, perché la gente di solito ottiene quello che già possiede. Non che lo ammirasse con personale slancio, perché nel sangue non aveva nessuna tendenza all'esotico, ma capiva quanto potesse riuscire piacente alle donne della sua razza e condizione, e rimpianse che né lei né Ronnie avessero fascino fisico. Vogliono dire qualcosa in un legame, la bellezza, i capelli folti, una pelle liscia. Probabilmente quell'uomo aveva molte mogli. Secondo Mrs. Tarton, i musulmani non rinunciavano mai alle 4 consentite. E poiché su quell'eterna roccia non aveva nessun altro con cui parlare, diede libero sfogo a quel discorso sul matrimonio e col suo modo franco, onesto, indagatore, domandò: «Avete una moglie sola o più di una?» Quella domanda scandalizzò profondamente il giovane. Essa sfidava una convinzione nuova della sua comunità, e le convinzioni nuove sono più suscettibili che le antiche. Se Adela gli avesse domandato «adorate un Dio solo o parecchi», lui non avrebbe avuto nulla da obiettare. Ma domandare a un indiano musulmano della classe colta quante mogli abbia era atroce, orribile. Non sapeva come nascondere il proprio imbarazzo. Una sola, nel mio caso particolare», balbettò, abbandonando la sua mano. In cima al sentiero c'erano moltissime grotte e pensando «al diavolo gli inglesi, anche i migliori», si tuffò in una di quelle per recuperare il proprio equilibrio. Lei lo seguì più lentamente, del tutto ignara di aver detto la cosa sbagliata, e avendolo perso di vista entrò a sua volta in una grotta, pensando con una parte della mente «visitare i posti mi annoia», e fantasticando con l'altra sul matrimonio. Aziz restò un minuto nella grotta e si accese una sigaretta per poter dire, tornando da lei, «sono corso dentro per togliermi dai riscontri d'aria o qualcosa del genere». Quando uscì, trovò soltanto la guida, col capo piegato da una parte. «Aveva sentito un rumore», disse la guida, «e subito lo sentì anche Aziz, sì, il rumore di un'automobile». Ora si trovavano sul versante esterno del Kawadol, e inerpicandosi per una ventina di metri poterono intravedere la pianura. Un'automobile si dirigeva verso i monti lungo la strada di Chandrapur, ma riuscirono appena a scorgerla perché il ripido bastione si incurvava sulla cima e non era facile vederne la base, e quando l'auto fu più vicina scomparve. Senza dubbio si sarebbe fermata quasi proprio sotto di loro, là dove la strada si perdeva in un sentiero e l'elefante aveva deviato per infilarsi tra i monti. Aziz corse indietro per comunicare quella strana notizia alla sua ospite, ma la guida gli spiegò che era entrata in una grotta. «Quale grotta?» L'altro indicò vagamente il gruppo. Non dovevi perderla d'occhio, era tuo dovere, disse Aziz severamente. Qui ci sono a dir poco 12 grotte. Come faccio a sapere in quale sta la mia ospite? Qual è la grotta dove ero io? Lo stesso gesto vago. E Aziz, guardando meglio, non poteva nemmeno giurare d'essere tornato allo stesso gruppo. Si vedevano grotte da ogni parte. Si sarebbe detto che quello fosse il loro luogo originario di proliferazione. E gli orifizi erano tutti grandi uguali. Pensò, santo cielo, Miss Questide si è perduta. Poi si fece coraggio e si mise a cercarla con calma. «Grida!» ordinò. Gridavano già da parecchio tempo, quando la guida gli spiegò che gridare non serve, perché una grotta Marabar non ode altro suono che il proprio. Aziz si asciugò il capo e il sudore si mise a corrergli dentro i vestiti. Quel posto era talmente fatto per disorientare, in parte a terrazza, in parte a serpentina e tutto pieno di solchi che guizzavano qua e là come tracce di rettili. Egli cercò di esaminare ogni cosa in ordine, ma non sapeva mai da dove aveva cominciato. Le grotte si addossavano l'una all'altra o confabulavano a coppie e certe stavano sull'orlo di un canalone. «Vieni qua», disse Aziz gentilmente, e quando la guida gli fu a tiro, lo colpì sulla faccia per punirlo. L'uomo fuggì e lui rimase solo. Pensò, questa è la fine della mia carriera, la mia ospite si è perduta. E poi scoprì la semplice e sufficiente spiegazione del mistero. Miss Quested non si era perduta. Aveva raggiunto le persone dell'automobile. Senza dubbio, amici suoi. Mr. Islop, forse. La intravide per un attimo giù alla base del canalone. Solo un attimo, ma non c'era dubbio che fosse lei, incorniciata tra le rocce, che parlava con un'altra signora. Ne ebbe un tale sollievo che non trovò strana quella condotta. Avvezzo ai repentini cambiamenti di programma, si figurò che fosse corsa giù dal Cawadol per un moto subitaneo, nella speranza di una piccola gita in macchina. E si incamminò tutto solo verso l'accampamento. E quasi subito gli cadde l'occhio su una cosa che un momento prima l'avrebbe inquietato moltissimo. Il binocolo di Miss Quested. Era in terra, sulla soglia di una grotta. Cercò di appenderselo alla spalla, ma la cinghia di cuoio era spezzata, e allora se lo cacciò in tasca. Fatto qualche passo, gli venne in mente che la ragazza poteva aver lasciato cadere qualche altra cosa, e tornò indietro a guardare. Ma si ripeté la difficoltà di poc'anzi. Non riuscì ad individuare la grotta. Sentì partire l'automobile nella pianura, ma non poté darle una seconda occhiata. Allora si calò per il versante a valle verso Mrs. Moore e stavolta ebbe maggior fortuna. Ben presto apparvero i colori e la confusione del suo piccolo campo, nel mezzo del quale vide il casco di un inglese, sotto cui sorrideva: «Oh, gioia, non Mr. Islop, ma Fielding!» «Tujhe dekha, to ye jana sanam, pyar hota hai divana sanam, tujhe dekha to ye jana sanam.» «Fielding, quanto mi siete mancato!» gridò Aziz, tralasciando per la prima volta il mister. E il suo amico gli corse incontro, spiegandosi, scusandosi addirittura di aver perso il treno, con tanta cordialità, con tanta festosità, senza cerimonie. Fielding era venuto con l'automobile arrivata poco prima, l'automobile di Miss Derek, e via a chiacchierare, mentre tutti i servi sospendevano il lavoro ai fornelli per ascoltarli. Quella cara Miss Derek incontra per caso Fielding all'ufficio postale, gli domanda: «Come mai non siete andato al Marabar?» viene a sapere che ha perso il treno e si offre di portarlo subito là. Un'altra simpatica signora inglese. E dov'era? Con l'automobile e l'autista, intanto che Fielding cercava il campo. L'automobile non poteva arrivare fin lassù. No, naturalmente, bisognava scendere giù a centinaia per scortare Miss Derek e mostrarle la strada. Anche l'elefante in persona... Aziz, potrei bere qualcosa? Assolutamente no! E corse a prendere da bere. Mr. Fielding! Chiamò Mrs. Moore dalla sua macchia d'ombra. Non si erano ancora parlati, perché l'arrivo di Fielding era coinciso con quella cateratta giù dal monte. Di nuovo buongiorno, esclamò lui, sollevato di trovare tutto in regola. Mr. Fielding, avete visto Miss Quested? Ma sono appena arrivato. Dov'è? Non lo so. Aziz, dove avete messo Miss Quested? Aziz, che stava tornando con un bicchiere in mano, dovette concentrarsi un istante. Il suo cuore era pieno di una felicità nuova. Il picnic, dopo uno o due brutti contrattempi, si era trasformato in qualcosa che superava tutti i suoi sogni, perché non soltanto Fielding era venuto, ma aveva portato un ospite in attesa. «Oh, sta benissimo», disse. «È corsa giù a vedere Miss Derek. Beh, alla salute, cin cin». «Alla salute, sì, ma cin cin non l'accetto», rise Fielding, che detestava quel modo di dire. «All'India». Alla salute e all'Inghilterra. Tujhe dekha to ye jana sanam. L'autista di Miss Derek fermò la carovana che stava partendo per accompagnare su la sua padrona e comunicò che quella era tornata a Chandrapur con l'altra giovane signora. L'aveva mandato ad avvertirli. Guidava la macchina lei stessa. «Oh, sì, è più che logico», disse Aziz. «Lo sapevo che avrebbero fatto un giretto». «Chandrapur? Quell'uomo si sbaglia», esclamò Fielding. «Ma no, perché?» Era deluso, ma faceva il disinvolto. Senza dubbio, le due giovani signore erano grandi amiche. Avrebbe preferito averli a colazione tutti e quattro, ma gli ospiti devono fare quello che vogliono, se no diventano prigionieri. E se ne andò tutto allegro a esaminare il porridge e il ghiaccio. «Che cosa è successo?» domandò Fielding, presentendo subito che qualcosa non andava. Per tutta la strada Miss Derek non aveva fatto che parlare di quel picnic. Aveva detto che era una festa inaspettata e aveva dichiarato di preferire gli indiani che non la invitavano ai loro ricevimenti a quelli che la invitavano. Mrs. Moore stava seduta dondolando un piede e aveva un'aria bisbetica e istupidita. Disse: «Miss Derek è molto inconcludente e irrequieta, va sempre di fretta, sempre in cerca di qualche cosa di nuovo, e combinerà di tutte, fuorché tornare dalla signora indiana che la paga». Fielding, al quale Miss Derek non era antipatica, rispose: «Non aveva fretta quando l'ho lasciata. Non si era nemmeno accennato di tornare a Chandrapur. Ho idea che fosse piuttosto Miss Quested ad avere fretta». «Adela? Non ho mai avuto fretta in vita sua», disse la vecchia signora seccamente. «Certamente verrà fuori che è stato un desiderio di Miss Quested. Ne sono sicuro», insistette Fielding. Era seccato. Soprattutto con se stesso. Aveva cominciato col perdere un treno, colpa che non aveva mai commessa. E ora che era arrivato là, non aveva fatto altro che scombinare per la seconda volta i preparativi di Aziz. Voleva condividere la responsabilità con qualcun altro e guardò Mrs. Moore con un certo sussiego. «Aziz è una carissima persona», dichiarò. «Lo so», rispose lei con uno sbadiglio. «Si è preso un'infinità di fastidi perché il nostro picnic riuscisse bene». Mr. Fielding e Mrs. Moore si conoscevano molto poco e l'essere stati avvicinati da un indiano li metteva in un certo imbarazzo. Il problema razziale può prendere forme ambigue. Nel loro caso aveva fatto scoccare una specie di gelosia, un sospetto scambievole. Lui cercava di stuzzicare l'entusiasmo della vecchia signora, lei faceva una grazia a parlare. Aziz venne a prenderli per la colazione. Ma è naturalissimo da parte di Miss Quested, osservò Aziz, perché aveva un po' lavorato di fantasia sull'episodio, di cui gli pesava la grossolanità. Stavamo facendo un'interessante chiacchierata con la nostra guida, poi abbiamo visto l'automobile e lei ha deciso di raggiungere la sua amica. Inguaribilmente impreciso, già pensava che fosse andata proprio così. Era impreciso perché era sensibile. Non gli garbava di ricordare quell'osservazione di Miss Quested sulla poligamia, così indegna di un ospite, e allora ne scacciava il pensiero insieme con la nozione di essersi precipitato in una grotta per allontanarsi da lei. Era impreciso perché voleva renderle onore, e visto che i fatti erano aggrovigliati, doveva ricomporglieli tutti intorno, come si livella la terra dopo averne strappato un'erbaccia. Insomma, prima che la colazione fosse finita, aveva detto una filza di bugie. «Lei è corsa dalla sua amica, io dai miei amici», proseguì sorridendo. «E adesso sono con loro, e loro sono insieme, sono con me, e questa è la felicità». Amandoli entrambi, si aspettava che quelli si amassero tra loro, e quelli non volevano saperne. Fielding pensava con ostilità, ma lo sentivo, che queste donne avrebbero portato guai. E Mrs. Moore pensava, «Quest'uomo cerca di prendersela con noi perché ha perso il treno». Ma i suoi pensieri erano fiacchi. Dopo quel mancamento nella grotta, era caduta in uno stato di apatia e di cinismo. Era scomparsa l'India meravigliosa delle prime settimane, con quelle notti fresche e le gradevoli suggestioni di infinito. Fielding visitò una grotta in fretta e furia. Non ne fu impressionato. Poi salirono sull'elefante e la carovana cominciò a sdipanarsi fuori della forra per sbucare sotto il precipizio verso la stazione ferroviaria, incalzata da pugnalate d'aria calda. Arrivarono dove Fielding aveva lasciato la macchina. Egli fu colto da un pensiero spiacevole e disse: «Aziz, come e dove, di preciso, vi siete separato da Miss Quested?» «Lassù», indicò allegramente il Cawadol. «Ma come...» Tra le rocce in quel punto si vedeva un crepaccio, o meglio una fessura, tutta incrostata di cactus. «Beh, la guida l'avrà aiutata, immagino». «Oh, certo!» «Premurosissimo!» «C'è un sentiero dalla cima?» «Milioni di sentieri, amico mio!» Fielding non vedeva nient'altro che quella fessura. Tutto intorno il granito abbagliante sprofondava nella terra. «Ma li avete visti arrivare giù sani e salvi?» «Ma sì, ma sì! Lei e Miss Derek! E poi se ne sono andate in automobile!» «E poi la guida è tornata da voi?» «Naturalmente. Una sigaretta?» «Spero che non stesse male», insistette l'inglese. La fessura si prolungava attraverso la piana, dove l'acqua si incanalava verso il Gange. «Se fosse stata male, avrebbe chiesto le mie cure!» «Sì, sì, questo è giusto.» «Ah, vedo che vi state preoccupando. Parliamo d'altro», disse Aziz gentilmente. «Miss Quested era libera di fare quello che desiderava. Era il nostro patto. Vedo che vi state preoccupando per me, ma vi assicuro che non me ne importa. Non faccio mai caso a queste piccolezze.» «Certo che mi preoccupo per voi. Trovo che sono state villane», disse Fielding, abbassando la voce. «Lei non aveva nessun diritto di lasciare il vostro picnic, e Miss Derek non aveva nessun diritto di tenerle mano.» Aziz, di solito così ombroso, rimase imperterrito. Le ali su cui si librava non cedettero, perché lui era un imperatore mogol che aveva fatto il proprio dovere. Appollaiato sul suo elefante, guardava allontanarsi i monti Marabar e rivide, come province del suo regno, la spietata e incolta pianura, i folli e languidi movimenti dei secchi, i bianchi santuari, le tombe basse, il cielo soave, il serpente che sembrava un albero. Aveva cercato come poteva di far divertire i suoi ospiti, e se quelli arrivavano tardi o se ne andavano presto, la cosa non lo riguardava. Mrs. Moore dormiva, Mohammed Latif la sorreggeva valido e rispettoso, e accanto ad Aziz sedeva Fielding, che lui, dentro di sé, cominciava già a chiamare per nome Cyril. Aziz, avete calcolato quanto vi costerà questo picnic? Amico mio, non toccate questo tasto! Centinaia e centinaia di rupie! Ah, il conto alla fine sarà spaventoso. E i servi dei miei amici mi hanno derubato a mansalva. E quanto all'elefante, quello pare che mangi oro. E del resto, denaro che va, denaro che viene. Denaro che resta, morte che viene. Avete mai sentito quest'ottimo proverbio urdu? No, probabilmente, perché l'ho appena inventato. E voi? Avete sentito i miei proverbi? Un penny risparmiato è un penny guadagnato. Un punto in tempo ne risparmia 100. Guarda prima di saltare. E su questi si basa l'impero britannico. Badate che non ci butterete mai fuori se non imparate a essere prudenti. Buttarvi fuori? E perché dovrei immischiarmi in questa sporca faccenda? Lasciatela ai politici. Ah, no, no. Sì, certo, quando ero studente, i vostri dannati compatrioti mi facevano ribollire il sangue. Ma se mi lasciano continuare la mia professione e non mi trattano sistematicamente dall'alto in basso, io non chiedo altro. Sì, invece, li portate ai picnic. Questo picnic non c'entra niente con gli inglesi o con gli indiani. È una gita tra amici. Ma adesso io preferisco essere amico di un solo inglese che nemico di un intero popolo. Sandro Lombardi ha letto Passaggio in India di Edward Morgan Forster, realizzazione tecnica di Lorenzo Grego, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli con Lorenzo Pavolini. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito www.radio3.rai.it. Per scaricare questo programma www.radio3pod.rai.it.